Erdogan in missione europea, Turchia e Grecia, il fuoco sotto la cenere. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Our first priority is making sure that order is maintained at the Greek external border, which is also a European border. Ve şimdi kapıları açınca telefon üstüne gelmeye başladı. Telefon üstüne gelmeye başladı. Kapıları kapatın. Welcome back to our place of work. Buona giornata, ben ritrovati, buon lunedì, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Vi porgo i saluti da parte di tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano. Con me ci sono Antonio Talia, Ilaria Sesana, Andrea Macchioni, Valentina Ternullo e Valeria Bernardi in console. 349-238-6666 per porre domande e commentare il tema che vi proponiamo in questa prima puntata della settimana di Nessun Luogo è Lontano. Commenti, domande, critiche anche via Twitter, Nessun Luogo 24, ovvero Giampaz, e poi su Facebook, Nessun Luogo è Lontano, Radio 24 è la pagina. La potete trovare facilmente su Facebook, potete cliccare mi piace per esempio e potete anche postare appunto i vostri commenti. Lì troverete anche la diretta video di questa trasmissione. Oggi vi racconteremo tutti i tavoli del presidente turco Erdogan, dall'energia all'immigrazione, dalla questione curda fino alla questione europea. Erdogan negli ultimi mesi si è dimostrato un ottimo giocatore di poker, bravo soprattutto nel rilancio, il presidente turco, che gioca su più tavoli e rilancia su più tavoli e spesso gioca anche a carte scoperte. Ma quali partite vuole davvero vincere? A queste domande proveremo a dare una risposta, non prima di aver misurato la temperatura. Il nostro ricco, come d'abitudine, il lunedì termometro internazionale ci porta innanzitutto in Sudan, perché poche ore fa, come ha riferito la televisione di Stato di Khartoum, il primo ministro Abdalla Hamdok sarebbe sopravvissuto a un tentato omicidio nella capitale, appunto. Stava viaggiando in auto e il suo convoglio è stato raggiunto da una esplosione. Non vi è stata rivendicazione per il momento. All'inizio si era diffusa la notizia secondo la quale il premier sudanese sarebbe stato anche gravemente ferito, ma poi le sue condizioni, invece, ha riferito il suo entourage, sono state date per buone. Lo ricorderete, Hamdok era stato nominato primo ministro in agosto dello scorso anno, quella crisi sudanese ve l'avevamo raccontata con dovizia di particolari, dopo la deposizione di Omar al-Bashir, il presidente dittatore, come qualcuno l'aveva soprannominato. Si era arrivati a una forma di governo, di transizione, in cui erano coinvolte sia anime civili che anime militari, ma qualcuno da più parti sussurra che in realtà gli elementi militari fedeli a Omar al-Bashir ancora contino tanto, troppo, e per leggere l'attentato al primo ministro ancora in effetti bisogna aspettare che trapelino altre informazioni. Di sicuro non è un segnale rassicurante per il paese. Da un mistero a un altro, anche se quello che vi racconto adesso molto brevemente, la seconda notizia del nostro termometro internazionale, in realtà ha più i contorni di una faida interna, familiare. Siamo in Arabia Saudita perché Mohammed bin Salman, MBS, come è ribattezzato dai media, il principe ereditario, che però de facto è quello che regge le sorti e i destini dell'Arabia Saudita, dopo che qualche mese fa, lo ricorderete, aveva fatto arrestare 200 persone legate in qualche modo sempre alla famiglia reale, nelle ultime ore ha fatto arrestare ancora una volta, in particolare a venerdì scorso, due membri della famiglia reale stessa, e sono il fratello e il nipote di Re Salman, rispettivamente il principe Ahmed bin Abdulaziz al Saud e il principe Mohammed bin Nayef. Ancora una volta, dicevo, è un ennesimo capitolo di questi intrighi di palazzo in cui emerge questa spregiudicata e giovane figura di Mohammed bin Salman, che riesce a tessere all'estero trame piuttosto efficienti ed efficaci, il rapporto con gli Stati Uniti per esempio, e poi però allo stesso tempo si trova in qualche modo a difendersi da dissidi interni, pensate alla famiglia reale stessa. In Afghanistan vi abbiamo dato conto di quella che è stata la pur risicata rielezione di Ashraf Ghani, il presidente che era già stato in carica ed è stato è uscito vincitore anche durante l'ultima consultazione elettorale. Ricorderete che ci sono voluti 6 mesi per decretare il vincitore. Ebbene, poche ore fa Ashraf Ghani ha giurato, se non fosse che anche Abdullah Abdullah, che è l'altro grande candidato, l'altro grande uomo politico afghano che era candidato e che ha perso per, pensate, lo 0,5% sostanzialmente dei voti dei pochi afghani che si sono recati alle urne, ha fatto anch'egli un giuramento in un palazzo molto vicino al palazzo presidenziale, proclamandosi anch'egli presidente dell'Afghanistan. Allora, parlando sempre di coronavirus, Donald Trump da stamattina, sostanzialmente dalle prime ore di questa mattina statunitense, ovviamente, complice anche il crollo dei mercati, del prezzo del petrolio, si sta scagliando con una serie numerosa e cospicua di tweet, cercando di minimizzare al massimo quello che è il rischio del coronavirus negli Stati Uniti, e si sta scagliando in particolare contro il sistema dei media, che lui normalmente bolla generalmente nella sua totalità come fake news, e complice, chi sono i complici? Ovviamente il Partito Democratico, che nelle parole di Donald Trump hanno fatto di tutto per esagerare il pericolo da coronavirus, andando ben oltre quello che i fatti suggeriscono. Infatti, secondo il presidente statunitense, il ministro della salute Jerome Adams ha detto che il rischio di contagio per gli americani va da basso a medio. Poi ha attribuito il crollo di Wall Street a una varia combinazione di fattori, fra cui ovviamente le fake news e il fatto che Arabia Saudita e Russia stiano litigando sul prezzo del petrolio, e così facendo fanno abbassare appunto i mercati. L'ultimo tweet battezzava questa frase: lo scorso anno 37.000 americani sono morti di influenza comune, ogni anno la media è tra 27 e 70.000, non è stato chiuso niente, la vita e l'economia vanno avanti. Con il coronavirus negli Stati Uniti al momento ci sono 546 casi confermati e 22 vittime. Pensateci, punto esclamativo, così ha chiuso il tweet Donald Trump, iniziando a scatenare già osservatori e analisti, ipotizzando che cosa? Che questo minimizzare gli effetti possibili del coronavirus sia un modo per Donald Trump per cercare di non aggiungere una medaglia, stavolta nera e non come quelle al valore che si è appuntato fino adesso, soprattutto in politica estera. E appunto qualcuno inizia già a sussurrare che il coronavirus negli Stati Uniti potrebbe essere un boomerang elettorale in vista di novembre. Allora, l'ultima notizia del nostro termometro internazionale è stata battuta pochissime ore fa dalle agenzie e ci porta in Niger, in particolare nella regione meridionale, perdonatemi, di Diffa. Siamo al confine con la Nigeria. Ha rifatto capolino chi? Era un po' che non si facevano sentire, una formazione di Boko Haram che ha sferrato un attacco a una base militare nigerina. Il modus operandi di questa formazione islamista è sempre la stessa: gli obiettivi sono spesso militari e sono spesso basi. Perché? Perché annientando la facile resistenza dei militari nigerini si riesce ad accaparrarsi, riescono ad accaparrarsi quantità di armi e magari anche di veicoli militari. Allora, 349-238-6666 per i vostri commenti e le vostre domande. Oggi, ve l'ho preannunciato, parliamo di un incredibile, quasi multitasking, qualcuno potrebbe definirlo, giocatore di carte che gioca su più tavoli. Intanto vi do conto di qualche commento al 349-238-6666. Qualcuno che immagino con tono niente affatto compiaciuto dice: ma perché anche oggi la priorità dell'Unione Europea è la questione dei profughi siriani, non c'è qualcos'altro di più importante? Così un ascoltatore o ascoltatrice. Che disastro l'Afghanistan, quando si avrà mai un governo veramente democratico e un paese appacificato? Alessandro, che esprime la frustrazione, che è la stessa peraltro di tanti afghani. Vi abbiamo dato conto anche di quello che adesso è la vera pagina di storia afghana che va scritta, e andrà scritta da Ashraf Ghani, con quella presenza, con quel governo ombra di Abdullah Abdullah e poi i talebani, perché come sapete controllano per il momento il 50% del territorio, soprattutto zone rurali, ma hanno intenzione di pesare su quello che sarà il futuro governo afghano. Allora, dicevo, giochiamo a carte in qualche modo, perché? Perché cercheremo di capire come questo giocatore, che fino a qualche anno fa, come dire, aveva una tattica e una, soprattutto una strategia decisamente più sommessa, e sto parlando del presidente turco Erdogan, ultimamente diciamo che ha iniziato a comparire e a giocarsela su tanti, tanti quadranti, da quello libico a quello siriano, e andando per campi e settori, da quello dell'immigrazione fino a quello dell'energia. Oggi cercheremo di capire gli obiettivi del presidente turco Erdogan. Direi di partire con una frase che è abbastanza emblematica e ci riporta immediatamente a quello che è il dossier del quale il presidente Erdogan oggi discute a Bruxelles. Incontrerà Ursula von der Leyen, incontrerà anche Stoltenberg, segretario generale della NATO, insomma un piccolo tour europeo in cui Erdogan evidentemente andrà a chiedere qualcosa. Cercheremo di capire cosa, ma prima sentite la voce di Erdogan. Dopo aver aperto le porte, ho ricevuto più chiamate in cui mi è stato detto: chiudi le porte. Ho detto loro: è fatta, è finita. Le porte ora sono aperte. Ora dovete prendervi parte del fardello. Un messaggio politico estremamente chiaro, a cui ha fatto seguito non soltanto un'apertura vera e propria dei confini, soprattutto quello terrestre, quello marittimo. In realtà nel weekend la Turchia ha fatto un dietro front, evitando la partenza di quei fragili e malmessi canotti che tante migliaia di persone hanno portato su Lesbos, su Samos e le isole antistanti la costa turca. Prima di presentarvi la prima ospite di questa puntata di Nessun Luogo Lontano, vi faccio sentire quella che è l'opinione di Gerald Knaus. Forse a molti non dirà tantissimo questo nome. È uno scienziato politico austriaco, ha fondato il think tank European Stability Initiative ed è sostanzialmente uno degli architetti proprio di quell'accordo Unione Europea e migranti e Turchia, scusatemi, quello da 6 miliardi di euro che potrebbe essere in qualche modo rinnovato in queste ore a Bruxelles. A lui abbiamo chiesto l'obiettivo del viaggio di Erdogan a Bruxelles. Ascoltiamo. Beh, penso che sia incoraggiante che ci sia ancora una discussione in corso, dato che il problema degli ultimi mesi è stato che la Turchia e l'Unione Europea non hanno discusso abbastanza. Hanno solamente proseguito in quello che finora è il progetto di maggior successo dell'Europa, ossia ridurre l'immigrazione irregolare, rispettando allo stesso tempo la Convenzione di Ginevra sui rifugiati. 4 anni fa, l'Unione Europea aveva promesso di spendere 6 miliardi di euro per la più grande massa di rifugiati del mondo, cioè i siriani che hanno trovato riparo in Turchia. Si tratta di centinaia di migliaia di bambini che devono andare a scuola e di 1,7 milioni di rifugiati che hanno bisogno di un sostegno sociale e di sanità. Questo progetto ha funzionato molto e ha ridotto la pressione migratoria dalla Turchia, dato che lo scorso anno il 99,5% dei siriani è rimasto in Turchia. Tuttavia, non è stato manifestato un nuovo, chiaro impegno, dato che dalla fine dello scorso anno non sono stati pianificati nuovi progetti e il prossimo anno la maggior parte dei progetti finanziati con questi 6 miliardi verranno chiusi. E questo costituisce un enorme errore strategico da parte dell'Unione Europea. La Turchia ha reagito a questo errore in maniera inaccettabile, cercando di strumentalizzare i rifugiati al confine. Quello di cui abbiamo bisogno adesso, invece di questa strumentalizzazione su entrambi i lati del confine, è di trovare una soluzione in linea con la Convenzione sui rifugiati. Per questo, che ci sia un nuovo dialogo è un buon segnale. La lettura del recente accordo, ormai è passato qualche anno, dell'accordo che potrebbe essere rinnovato dopo la visita di Erdogan a Bruxelles quest'oggi, Ursula von der Leyen, ma anche Serge Michel e poi anche il segretario generale della NATO Stoltenberg. Buongiorno, ben ritrovata Nessun Luogo Lontano, Marta Ottaviani, giornalista freelance, scrive fra l'altro per Avvenire e Stampa. Marta, buongiorno, ben ritrovata Nessun Luogo. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, hai sentito quella che è un po' la lettura, evidentemente, come dire, ottimistica e anche bonaria di quell'accordo che per molti è stato un accordo demoniaco, fatta da Gerald Knaus, che è appunto uno degli architetti di quell'accordo, però sostanzialmente dice: attenzione, era il miglior accordo che si poteva fare. Che cosa punta Erdogan dai suoi incontri che si terranno in queste ore a Bruxelles, Marta Ottaviani? Secondo te punta a rinnovare quell'accordo o metterà, abbiamo detto che è un ottimo giocatore di poker, metterà qualcos'altro sul piatto e rilancerà? Ma io mi immagino che con la tensione anche creata dalle decine di migliaia di persone che, ricordiamolo, cercano di entrare in Europa per una vita migliore e che purtroppo per la maggior parte non erano nemmeno siriane, cioè, ci sono tanti afghani, sì, tanti pakistani, tanti iraniani, io credo che Erdogan sfrutterà l'impatto emotivo e anche la preoccupazione sollevata da tutte queste persone al confine con la Grecia per alzare il prezzo e per ottenere qualcosa non solo dal punto di vista economico ma anche da quello politico. Mi riferisco in particolare alla liberalizzazione dei visti, sì, che la Turchia cerca da anni e che l'Europa in questo momento si è sempre rifiutata di concedere, anche perché per ottenere la liberalizzazione dei visti Ankara dovrebbe soddisfare delle clausole, soprattutto che riguardano i diritti umani, che Ankara insomma si è sempre ben guardata, sì, dall'ottemperare. Anzi, quindi, ecco, Marta, perdonami, ti interrompo, mi verrebbe da dire che mentre da un lato Erdogan sembra premere su che cosa? Da un lato la ripresa del dialogo sull'adesione all'Unione Europea, dall'altra la questione gli è molto cara dei visti dei cittadini turchi, che però, come giustamente detto, devono sottostare alcuni requisiti, soprattutto nel campo dei diritti umani. Dicevo, mentre mette la quinta su quello, allo stesso tempo assistiamo a sempre più ondate di arresti, per esempio censure sui giornalisti. Quindi da questo punto di vista forse il giocatore così bravo sul tavolo sta mostrando qualche crepa. Che cosa dici? Non è una mancanza di strategia nel lungo periodo? Ma io credo che in realtà sia un totale distacco dalla realtà da una parte e certezza di Erdogan che può ottenere quello che vuole. Vi racconto questo aneddoto che però è paradossale. Sì. Ieri sera il Presidente della Repubblica ha twittato dicendo che celebrare la festa del mondo, la festa della donna nel mondo è ipocrita, nel mondo occidentale è ipocrita visto come le donne sono trattate. Ecco, a Istanbul tutti gli anni viene repressa la manifestazione organizzata dalle associazioni, sì, femminili e dalle organizzazioni femministe. È un fabbricatore anche di fake news, in questi giorni se ne sono sentite di ogni tipo, anche contro il governo greco, che sicuramente ha respinto i profughi in maniera assolutamente vergognosa e troppo forte, sicuramente riprovevole, ma molti pullman sono stati finanziati da Ankara, sì, ed era la stessa Turchia, sì, ad aver dato ai rifugiati, agli aspiranti rifugiati che premevano sul confine, le armi per, come dire, entrare in contrasto con la polizia greca. E invece poi ieri Erdogan ha cercato di aprire in qualche modo ad Atene dicendo fateli passare e fateli andare negli altri paesi europei. Sì. Quindi secondo me è un Erdogan che a modo suo è già in Europa, ma per devastarla, per distruggerla, per costringere i paesi europei, che evidentemente hanno già dei problemi tra di loro nell'andare d'accordo su tanti capitoli, a entrare in rotta di collisione su un capitolo che è molto più sensibile di altri, come quello dei migranti. La voce che state ascoltando è quella di Marta Ottaviani, giornalista freelance esperta di Turchia. Da poco, peraltro, Marta, relativamente poco per una carriera giornalistica, ti stai sempre più interessando alla Russia e questo ci dà una mano, perché tra poco ricorrerò alle tue competenze per andare a Mosca per capire quello strano rapporto che esiste con Vladimir Putin. Prima però un po' di commenti e domande degli ascoltatori al 349-238-6666. La strategia del sultano è chiara: o ci date i miliardi per i vari progetti, su cui lui ci farà una cresta dell'80%, dice l'ascoltatore, o vi faccio arrivare tutti i rifugiati possibili, rifugiati da lui creati, dice tra virgolette questo ascoltatore, con la guerra in Siria. Altri soldi fino al prossimo ricatto, fa eco un altro ascoltatore, come alla fine dell'impero romano, quando Roma non aveva più la forza di combattere le pressioni barbariche e continuava a pagare gli unni e gli altri barbari per non farsi invadere, ma poi i barbari non si accontentano mai ed erano sempre a chiedere soldi. Così un altro ascoltatore. E un'altra domanda invece, questa è per Marta Ottaviani: ma i rifugiati siriani in Turchia come stanno? Marta, forse bisogna fare delle distinzioni, no? È difficile, come dire, avere una media del trattamento di chi è profugo. Alcuni riescono persino a inserirsi nella società in maniera migliore, altri rimangono ai margini, addirittura nei campi, altri finiranno in quella famosa fascia di sicurezza che Erdogan sta creando nel nord ovest della Siria. Però aiutami a rispondere a questa curiosità di un ascoltatore. Si può comunque fornire un dato che è abbastanza indicativo. Nei campi allestiti dalla Turchia in questo momento sono ospitati solo circa un decimo dei rifugiati presenti nel paese, che sono oltre 3 milioni. Sì. Molti, come hai raccontato, alcuni, come hai raccontato tu, sono riusciti a rifarsi una vita, anche perché dobbiamo far presente agli ascoltatori che dalla Siria sono arrivate persone che nel loro paese avevano aziende, avevano negozi, erano persone, voglio dire, anche con un profilo professionale elevato, sì. Quindi alcuni di loro sono riusciti a ricollocarsi nella società turca, hanno comprato casa, hanno iniziato una nuova vita. La maggior parte però purtroppo vive per strada, vive in palazzi occupati, vive sotto i ponti, vive in condizioni particolarmente critiche, soprattutto alla periferia di Istanbul, dove la situazione rasenta le emergenze, anche e soprattutto nelle città nel sud-est della Turchia come Gaziantep, Şanlıurfa, che hanno letteralmente cambiato volto. Pensate che solo Gaziantep è stimato ci siano circa 750.000 rifugiati nella, sì, provincia di Gaziantep. Sono numeri enormi. Che è la provincia che è a ridosso del confine con la Siria, quindi guardate, subisce in maniera Gaziantep, violenta. Esatto, tra Gaziantep e Aleppo c'è un'ora di macchina. Una volta, sì, quella era chiamata la via dell'abbondanza, prima della guerra, quando le relazioni tra Turchia e Siria erano idilliache, perché lì addirittura c'era una zona di libero scambio tra Turchia e Siria, sì, per farvi capire, sì, come una volta anche i rapporti tra Erdogan e Assad fossero diversi, no, da quelli odierni. Senza ed è dubbio una situazione di grandissima emergenza che pesa economicamente anche sulla Turchia, perché si parla di comunque di bambini che devono andare a scuola, che non sono madrelingua turchi e che stanno provocando anche il ritardo nell'apprendimento degli altri bambini, posto il fatto che Erdogan, che l'altro giorno si è dimostrato così sensibile nei confronti dei bambini prestati sul confine, dovremmo ricordare che anche nelle aziende turche in questo momento lavorano migliaia di minori siriani in condizioni davvero drammatiche e molto spesso sul filo del disumano. Quindi è una catastrofe umanitaria che si impiegherà decenni per riparare, ammesso che ci si riesca completamente. Marta Ottaviani, giornalista freelance, esperta di Turchia, e lo dicevo, da un po' di tempo si è cimentata con quello che è un altro grande attore ormai dell'ultimissimo ridisegno della geopolitica moderna, Vladimir Putin. Andiamo in Russia, con il quale Erdogan ha un rapporto, diciamo, a dir poco controverso. Su alcuni quadranti sono decisamente l'uno dalla parte e l'altro appunto antitetico, penso alla Libia, penso alla stessa Siria. Dall'altra parte non si nasconde una certa simpatia politica, forse le derive autocratiche di Erdogan piacciono anche a Vladimir Putin, ma al di là di tutto questo ci sono scambi, commerci, vendite di missili. Come potremmo definire, Marta Ottaviani, se Erdogan è un abile giocatore di poker che gioca molto spesso a carte scoperte e rilancia tantissimo, lo vediamo con i migranti, che giocatore di poker è contro Erdogan questo Vladimir Putin? Ma diciamo che al banco di Vladimir Putin Erdogan perde sempre. Vladimir Putin è l'unico davanti a cui Erdogan abbassa sempre la testa, lo si è dimostrato anche nell'ultimo vertice di venerdì scorso, dove peraltro Putin ha fatto aspettare Erdogan anche diversi minuti prima di riceverlo con tutta la delegazione, in, sì, segno quasi proprio di voler dire rimetterlo al suo posto in qualche modo. Diciamo che i banchi su cui gioca Erdogan sono tre sostanzialmente: quello russo, quello americano, quello europeo. In Europa va sempre a battere cassa, con l'America tiene un atteggiamento interlocutorio, anche perché insomma Donald Trump ci ha abituato a delle sorprese nella sua politica estera, sì. Una di queste sorprese Erdogan se la ricorda molto bene, quando gli ha alzato i dazi sull'acciaio e gli ha fatto andare fuori controllo la valuta nella, sì, crisi monetaria che proprio voi anche nessun luogo lontano avevate seguito, sì, 2 anni fa. Sì. Ecco, davanti a Putin Erdogan è sicuramente reticente, sa perfettamente che l'asse con la Russia è un asse di comodo, perché in realtà loro due non si sopportano, ma è un asse che fa troppo comodo a entrambe le parti, e soprattutto senza Putin, senza la minaccia quantomeno di Putin dietro, Erdogan sarebbe sicuramente molto meno considerato dal punto di vista internazionale. Certo, volevo, certo, dare un ultimo insight, sì, c'è un personaggio chiave a livello europeo che è Angela Merkel, che nei giorni scorsi ha parlato prima con Putin e poi con Erdogan, quindi mi viene da pensare che oggi Erdogan andrà a Bruxelles, non dico con una bozza d'accordo già fatta, ma sicuramente con alcuni paletti fissati. Grazie mille Marta Ottaviani, giornalista freelance, esperta di Turchia, buona giornata e buon lavoro Marta, alla prossima. Noi andiamo a sentire l'informazione finanziaria e poi la seconda parte. pagine di Nessun Luogo Lontano. Allora, il mattino all'oro in... Ah, dai, troppo banale. Il buongiorno si vede dal... No, questa è anche peggio. Che roba è? Cambiamo registro. 24 mattino vi aspetta con chiarezza per districarsi in un mondo complesso, obiettività perché il giusto confronto tra opinioni non macchi la realtà dei fatti e serietà, senza rinunciare alla giusta dose di ironia. Ah, certo, e senza frasi fatte. Sono Simone Spezia e vi aspetto dalle 6.30 con tutto quello che serve per sapere cosa si muove nel paese e fuori, analizzarlo e capirlo. Con me ci saranno Paolo Mieri dalle 7.30 nella rassegna stampa e Maria Latella dalle 8.15. Vi aspetto alla rassegna stampa per commentare con voi i quotidiani del giorno. Sono qua per fare domande, possibilmente quelle che fareste voi, ma anche per ascoltare le risposte, approfondire. Lo faremo, promesso, senza pregiudizi. Naturalmente su Radio 24. Un luogo comune è un'opinione o un concetto la cui diffusione... Un po' di... meno impostato, un po' di emozione. Ma sì, un po' di brio, dai. La cui diffusione, ricorrenza o familiarità... che cos'è? Vabbè, non sei credibile, cos'è il Carnevale di Rio? Ne determinano l'ovvietà o l'immediata riconoscibilità. Senti, teatro qua, tutto profondo, no. Basta questa cosa che il teatro è noioso, eh. È un luogo comune. In letteratura è detto topos e indica il ricorrere di un tema in un autore o in un genere letterario o artistico. Vabbè, non t'arrabbiare. Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Il sabato alle 22.30 e la domenica alle 14 su Radio 24. Nessun luogo è lontano. Buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori, questo è Nessun Luogo Lontano. In questa puntata di lunedì traiamo spunto da quello che è questa missione tutta europea del presidente turco Erdogan. Tra pochissimo alle 18 ora locale a Bruxelles andrà a vedere Ursula von der Leyen, come ci rivelava Marta Ottaviani, giornalista freelance Stampa e Avvenire fra gli altri, ma anche Radio 24. E probabilmente l'incontro di qualche giorno fa anche con la Merkel avrà dettato quella che è l'agenda, il tenore delle richieste che Erdogan potrebbe fare all'Europa. Il punto fermo è naturalmente la questione migratoria, nel senso che ormai stanno scadendo in qualche modo non soltanto gli accordi ma anche quel budget 3 miliardi più 3 miliardi che l'Unione Europea ha stanziato, in parte contrattualizzato e in parte anche già devoluto per la gestione dei profughi. È anche vero che rispetto a qualche anno fa il numero dei profughi è aumentato, 3.6 milioni, se non erro, siriani presenti sul territorio turco. Però dall'altra parte è altrettanto vero, come molti di voi segnalano, che la strumentalizzazione, l'utilizzo totalmente politico della leva migratoria è palese ed è sotto gli occhi di tutti. 349-238-6666 per continuare questo ragionamento e anche provare a dibattere su quello che dovrebbe essere non soltanto il ruolo dell'Unione Europea ma anche quello della Turchia stessa. Ma tra pochissimo vi porto in Grecia, perché diciamo tra gli attori dell'Unione Europea chi sopporta la prima linea di questo scontro con Ankara è certamente la Grecia. Erdogan, d'accordo con Putin, non sta cercando di compromettere l'Unione Europea, così un ascoltatore. Qualcun altro: Erdogan è una spina nel fianco della NATO e forse darà modo ai russi di tracciare i nostri aerei stealth. Figurarsi se a Putin non piace. Sarà il suo migliore amico finché gli servirà, così un ascoltatore che va, come dire, a corroborare quella che era la tesi di Marta Ottaviani. Ricordate, diceva sostanzialmente l'uno è utile all'altro, quindi finché si può andare più o meno a braccetto. Non c'è dubbio che a entrambi interessi un'Unione Europea fragile e debole, e come molti di voi stanno sottolineando, evidentemente ne approfittano. Andiamo ad Atene, lo facciamo con la voce del giornalista Dimitri De Leonanes, era il corrispondente di ART per l'Italia, è la radio TV nazionale ellenica. Dimitri, buongiorno, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno. Allora, Dimitri, il braccio di ferro tra Turchia e Grecia, che come dire vive anche di vecchie ruggini evidentemente anche particolarmente importanti, negli ultimi giorni si è palesato in tutta la sua violenza quando complice quella presenza di migranti proprio lì davanti alla rete, vi sono stati scambi addirittura di lacrimogeni dall'uno e dall'altra parte. Poi ci sono ripetute violazioni dello spazio aereo da parte per esempio dei jet di Ankara. Spulciando in rete si trova qualche analista che sussurra che questa escalation di tensione potrebbe far tornare alla mente quella che era il periodo addirittura della guerra. Ci aiuta a capire dal punto di vista di Atene quanto è alta questa tensione e quanto la Grecia può sopportare queste provocazioni da parte di Ankara? La tensione è altissima, i fumogeni e i lacrimogeni continuano anche oggi, nella giornata di oggi, e la tensione ovviamente sia del governo, cioè delle forze politiche greche, sia dell'opinione pubblica sono dirette appunto verso le mosse strategiche di Erdogan più che sulla pressione degli immigrati nella frontiera di Evros. Sì. Il problema è grave, il problema è molto serio, e se c'è una cosa buona che si può addebitare a Erdogan è che lui parla con grande franchezza e lui chiaramente ed esplicitamente più volte ha detto che i confini attuali tra la Grecia e la Turchia, ma anche tra la Turchia e alcuni paesi arabi come l'Iraq, non sono soddisfacenti per la Turchia, che le sue frontiere del cuore arrivano a Salonico, arrivano a Mosul, arrivano nell'Asia centrale e via di questo passo. E a queste parole estremamente esplicite poi seguono gli atti, che sono le violazioni a cui hai fatto riferimento, delle continue, quotidiane, ogni sì. giorno, ma anche azioni diplomatiche di grande significato provocatorio, come il recente accordo con il governo di al-Sarraj in Libia per definire le zone economiche esclusive sul mare, in cui si esclude, cioè viene ignorata un'isola non indifferente come Creta. Sì. Per cui la tensione è grande, c'è un progetto imperiale secondo la Grecia dietro a queste provocazioni di Erdogan, e anche l'accordo di oggi secondo l'opinione prevalente qui ad Atene non è solo avere soldi e sostegno per l'immigrazione, ma è anche avere sostegno diplomatico per le sue mosse sia in Siria sia nel Mediterraneo orientale. Sì. La voce che sentite è quella di Dimitri Deliolanes, il punto di vista da Atene delle mosse del sultano. Tanti dossier, alcuni li ha evocati giustamente Dimitri, ricordando quel accordo con Tripoli, con al-Sarraj, di cui vi abbiamo dato conto nelle scorse settimane. Sostanzialmente la Turchia si assicura, in collaborazione con quel pezzettino di Libia che è rimasta nelle mani di Tripoli, evidentemente una esplorazione su un lungo braccio, una lunga autostrada nel Mediterraneo. Poi c'è il dossier immigrazione, appunto, oltre a quello energia, poi c'è quello sicurezza. Dimitri Deliolanes, evidentemente Erdogan, hai fatto bene a ricordarlo, non nasconde le sue mire espansionistiche, però è anche vero che la Grecia deve sopportare le provocazioni forse più di altri paesi europei. Mi viene da fare un'analisi, ma liberissimo di prendere e gettarla via se è troppo basica. Non ti viene in mente questa riflessione? La Grecia, che è membro dell'Unione Europea e sopporta, no, le sfide di Erdogan, allo stesso tempo dall'Europa non è stata mai particolarmente aiutata. Non sarebbe forse il caso, e non è un caso peraltro, no, che la Turchia, per esempio, mandi migranti proprio al confine con la Grecia? Perché non li manda in Bulgaria, per esempio? Esatto, no? E non con la Bulgaria. Esatto. Ecco, allora perché c'è questa, come dire, quasi ideologica avversione da parte di Ankara verso la Grecia? Questa è facilmente spiegabile, ma perché l'Unione Europea non dà importanza, strumenti e magari anche un sostegno finanziario mirato alla Grecia, secondo te? Beh, all'epoca della crisi greca, un decennio fa, ci furono, qualcuno si ricorderà dei vostri ascoltatori, ci furono grandissime rimostranze verso la Grecia perché spendeva troppo nel campo della difesa. Dicevano, ma spendete tutti questi, più del 3% del PIL greco andava nella difesa, e allora i tedeschi per primi, che ovviamente sono quelli che ci interessano di più dei soldi, dicevano, perché tutti questi soldi per la difesa, fate economia, non spendete troppo per la difesa. All'epoca noi in Grecia ci guardavamo negli occhi e dicevamo, se l'Unione Europea avesse fatto una dichiarazione un'affermazione un po' credibile, o un grande paese europeo come la Germania dicendo le frontiere della Grecia marittime e terrestri sono intoccabili, chi le tocca dovrà misurarsi con noi, beh, questo sarebbe bastato per diminuire, certo, gran parte del nostro budget della difesa. Noi non, certo, siamo purtroppo diciamo così sostenuti in maniera concreta dall'Unione Europea, perché sappiamo che l'Unione Europea purtroppo su questi terreni non è un granché diciamo così coordinata e unita, ma purtroppo non siamo sostenuti neanche dalla nostra alleanza militare che è la NATO, perché dal 74, quando ci fu l'invasione dei turchi a Cipro, la NATO ha assunto questa posizione per cui no, noi come alleanza non ci occupiamo delle controversie tra paesi membri. Beh, certo, allora dimostri ancora una volta la tua inutilità come alleanza, perché il nostro nemico purtroppo è quello, sì, non ce n'è un altro per nostra fortuna, insomma, sì. Per cui ecco, la Grecia è un paese medio piccolo dell'Unione Europea che deve pensare da sola a mantenere a difendere il suo territorio sovrano, insomma. Chiarissimo, un'analisi spietata, allo stesso tempo chiarissima, quella di Dimitri De Leonis, che mette in luce soprattutto che cosa, mi permetto di sintetizzare e aggiungere un tassello: la Grecia che sopporta una prima linea di una crisi più generale che riguarda il campo energetico con le ambizioni turche, quello migratorio come leva, come ricatto, si trova a svolgere un ruolo all'interno dell'Unione Europea che non è adeguatamente supportato, anzi molto spesso è stato anche in passato minimizzato. Staremo a vedere cosa uscirà, scaturirà da questo incontro. Intanto grazie mille Dimitri De Leonis, lo ricordo. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie Dimitri, lo ricordo, è stato corrispondente di RTE, la radio TV nazionale ellenica, lavorava dall'Italia, da ciò il suo perfetto italiano, punto privilegiato di osservazione per noi, per capire anche quelle tante provocazioni turche. In proposito, tra pochissimo andiamo a sentire come va il traffico, però c'è un messaggio che mi incuriosiva, perché va a illuminare esattamente questo grande paradosso. Scusate, ma perché la Grecia deve sopportare così tanto se gli aerei turchi violano lo spazio aereo, che ne abbattino uno? Gentile Claudio, non può funzionare così, entrambi membri della NATO, sarebbe un qualcosa di incredibile e di infattibile, ma questo dimostra esattamente questo gigantesco paradosso. Viabilità, poi l'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata, buon lunedì, ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano vi raccontiamo quelli che sono i prodromi, le anticipazioni, le illazioni che possiamo provare a fare su quello che chiederà il presidente turco Erdogan tra pochissimo. Vedrà Ursula von der Leyen, ma parlerà anche con Stoltenberg della NATO. Molto ragionevolmente si parlerà soprattutto del dossier immigrazione, dopo le provocazioni e l'utilizzo da parte di tanti considerato assolutamente censurabile di migliaia di migranti al confine con la Grecia. Vi abbiamo regalato quello che è il punto di vista di una giornalista e analista come Marta Ottaviani, che conosce molto bene la Turchia e non ha mancato di criticare quello che è il comportamento, l'abbiamo spesso detto, è spregiudicato del presidente turco Erdogan, le sue mire espansionistiche. Poi, volando ad Atene con Dimitri De Leonis, anche lui non si è fatto tema di, a un certo punto, andare a ricordare le dichiarazioni di Erdogan, in questo senso che volevano rinverdire addirittura i confini del vecchio impero ottomano. 349-238-6666 per i vostri messaggi e i vostri commenti. Vi proporrei però un'analisi un pochino laterale a questo punto, perché diciamo che le tensioni soprattutto fra Turchia e un altro pezzo di Europa si sono viste in particolare in un'isola. L'isola è Cipro, che da sempre è stata al centro delle attenzioni turche e ancora più recentemente con quelle esplorazioni di gas sottomarine in cui sono coinvolte anche navi italiane, davanti alle quali Erdogan ha schierato anche le navi da guerra. Insomma, Cipro è come se riassumesse in maniera molto molto icastica quelle che sono le prepotenze di Erdogan all'interno del Mediterraneo. Allo stesso tempo, la Cipro, un'isola divisa in due, ci restituisce quello che è ancora divisioni politiche e tensioni nel 2020. Allora, abbiamo raggiunto Masih Derskartov, che è il direttore editoriale del Financial Mirror di Cipro, che è un quotidiano soprattutto finanziario, che ci fa una fotografia di come Cipro riesca a tutt'oggi scatenare gli appetiti di Ankara. Sentite. Well, up until 2017, the United Nations made an effort to try and bring the two sides as close to each other as possible. Fino al 2017 le Nazioni Unite si erano sforzate di far riavvicinare il più possibile le due parti per cercare una risoluzione pacifica. Ovviamente Cipro non ha bisogno di un conflitto sul suo territorio. Abbiamo visto quello che è successo in Siria e in Iraq. Vediamo quello che succede al confine tra Grecia e Turchia. Un conflitto non è quello che vogliamo. Serve stabilità per la crescita economica e per l'esplorazione delle risorse di gas. C'è stato uno sforzo in questo senso fino al 2017. Penso che entrambe le parti si siano avvicinate il più possibile, ma nessuna delle due ha voluto fare il passo finale, facendo concessioni all'altra parte per arrivare a una soluzione. Al tempo stesso c'è stato un aumento delle esplorazioni dei giacimenti di gas naturale. La Turchia ha le sue rivendicazioni sui giacimenti di gas. L'economia turca sta crescendo e il turismo sta crescendo. La Turchia pensa di essere in una posizione di forza maggiore rispetto al passato e per questo motivo non sta spingendo per trovare una soluzione definitiva alla situazione di Cipro. Tuttavia, è nell'interesse di entrambe le parti trovare una soluzione al più presto, perché questo porterebbe molti benefici a entrambe le parti, anche se l'economia cipriota è molto piccola. Il prodotto interno lordo è di appena 71 miliardi di dollari. Risolvere il conflitto tra Turchia e Cipro può portare benefici a entrambi per questioni territoriali, per la sicurezza regionale, per lo sfruttamento delle risorse energetiche, per il turismo, l'economia, il commercio e molti altri aspetti. Tourism, economy, trade, shipping, many other issues. In quest'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano stiamo viaggiando fino a Cipro, la cui parte nord, lo sapete, è stata occupata e poi formalmente riconosciuta solo dalla stessa Ankara. È un territorio che ospita peraltro un altissimo numero di militari, ultimamente anche droni. C'è qualche ascoltatore che mi sollecita, però in realtà come dire, il filo è piuttosto teso e anche distante, cioè va tirato per tanti chilometri. Mi chiede conto di un'esercitazione militare della NATO, il Defender Europe 20. Sì, sono arrivati 20.000 Marines dagli Stati Uniti ed è una delle esercitazioni più massicce degli ultimi tempi, ma sono arrivati in Estonia e appunto questa esercitazione si svolgerà in Estonia, guarda caso, come dire, frutto delle tensioni e dei come dire, gli asset che la NATO deve comunque sempre avere pronti di fronte alla Russia. Non è un caso appunto che si sia in Estonia. Fatemi tornare a Cipro, perché quest'isola è veramente interessante e in qualche modo plasticamente ci restituisce quello che è, lo dicevo, gli appetiti di Erdogan, soprattutto in campo energetico. Perché se è vero che il dossier immigrazione è quello che lui farà valere adesso sul tavolo di Bruxelles di Ursula von der Leyen, dall'altra parte anche il dossier energetico, complice per esempio quell'accordo con la Russia molto molto recente, è per Erdogan di vitale importanza. Così come il nodo centrale per Cipro rimane quello dell'energia. Sentite come lo ribadisce sempre Derskartov, che è il direttore editoriale del Financial Mirror di Cipro. Well, the key that is taking place now and has taken place in recent years has been energy. Il nodo centrale è quello dell'energia. Da un lato Cipro vuole sviluppare le proprie risorse energetiche per acquisire importanza nei confronti dei suoi partner europei. Dall'altro, anche la Turchia sta giocando la carta energetica. Quindi, le scoperte di giacimenti di idrocarburi sono al tempo stesso una benedizione e una maledizione, perché alimentano i conflitti. Quindi penso che il punto centrale sia trovare un compromesso tra le due parti che permetta a entrambe di trarre beneficio da queste risorse nel lungo periodo. Questa sarà la chiave per risolvere anche tutte le altre questioni. Il commento e l'analisi di Derskartov, direttore editoriale del Financial Mirror di Cipro. Perché parliamo di Cipro? Perché è sicuramente un punto cruciale per l'Europa, soprattutto in campo energetico. Sentite ancora il collega. Yes, because energy security means that the European Union will have a secure supply of energy. Sì, perché sicurezza energetica significa che l'Unione Europea può avere rifornimenti sicuri di energia e non c'è il rischio che un paese terzo possa chiudere il rubinetto e minacciare l'Unione Europea di tagliare i rifornimenti se non darà qualcosa in cambio sotto forma di tangenti o come quello che abbiamo visto con il flusso di rifugiati. Quindi, sapere che c'è un rifornimento sicuro dal Mediterraneo orientale è molto incoraggiante per il resto dell'Europa. Questa è l'analisi, il commento e in qualche modo quello che è stato un piccolo focus nell'ultima pagina di Nessun Luogo è Lontano. Cipro, forse al di fuori delle grandi cronache dell'attualità internazionale, ma eppure un'isola, un punto nevralgico importantissimo dove vi sono ancora tensioni mai sopite. Per questo abbiamo deciso di raccontarvi la loro importanza. 349-238-6666 per i vostri messaggi, i vostri WhatsApp. Ho 10 secondi, mi sento di leggere, visto che è lunedì e cerchiamo di chiudere in leggerezza. Mi fa sorridere un ascoltatore che scrive: abbattere aerei turchi e bombardare Ankara, così devono fare i greci. Chi dice che non si può fare è complice del kebabaro. Francamente mi sembra un po' un'opinione da kebabari o da fare a un kebab al bar. Detto ciò, una sola parola. Preludio ai titoli di coda e ringraziamenti a voi che siete stati all'ascolto, a tutta la squadra di Nessun Luogo. L'appuntamento è per domani, ore 16. Intanto un saluto da Gianpaolo Musumeci.